Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. In tutti i colloqui che ho fatto, l'80% del tempo è l'ufficio che si presenta a te, che ti spiega in che settori lavorano, che progetti fanno. E in Italia invece devi andare là quasi in ginocchio, supplicando per piacere e raccontando la storia dell'orso pur di venderti. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Molto interessante questo progetto Montebelluna on the Road, che ha analizzato il fenomeno migratorio dal 90 in poi, con le partenze dal comune di Montebelluna e della pedemontana trevigiana, intervistando 26 persone tra i 21 e i 50 anni in quasi tutti i continenti. Da questo progetto è nato un documentario presentato di recente. La testimonianza di Paolo, giovane montebellunese in Svizzera, è emblematica del perché i giovani lascino la penisola. E prosegue oggi il nostro viaggio fra i 30 migliori under 30 italiani espatriati di Forbes. La storia che vi racconteremo ci porterà negli Stati Uniti. La frase della settimana è copyright della CEI. Nel recente messaggio del 1 maggio, occorre offrire opportunità di lavoro anche di autoimpiego ai giovani che altrimenti scelgono di andare via. L'Italia, sottolineano i vescovi, non può continuare a sprecare l'intelligenza, il talento e la creatività dei suoi giovani che emigrano nella speranza di essere accolti altrove. Estrema scarsità di fondi e investimenti, mancanza di trasparenza nell'attribuzione dei fondi, mancanza di trasparenza nelle assunzioni, incertezza dei regolamenti. Questi i problemi della nostra università, segnalati con una lettera aperta da 15 ricercatori e docenti italiani all'estero, che propongono come soluzioni grants per giovani ricercatori, fondi assegnati a dipartimenti virtuosi, la creazione di un'agenzia per la ricerca, commissioni a forte carattere internazionale, l'incentivazione della mobilità dei ricercatori, il favorire l'entrata dei ricercatori provenienti dall'estero per combattere la fuga dei cervelli, chiari percorsi di carriera e infine commissioni aperte nei concorsi. Tra i firmatari anche Roberta D'Alessandro, protagonista di un'accesa polemica a febbraio col ministro dell'università Giannini. Restiamo sul tema ricerca. Oggi vi mostriamo un caso concreto di come negli Stati Uniti la ricerca possa farsi impresa col sostegno stesso dell'università. In America ho visto una realtà molto diversa. C'era la possibilità di fare una ricerca con mezzi avanzati su tecnologie all'avanguardia e la cosa mi ha, diciamo, sorpreso. Francesca Mirri, 28 anni, è una ricercatrice e imprenditrice oltreoceano, un'altra delle nostre eccellenze inserite da Forbes nella lista dei 30 migliori under 30 mondiali. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. È in aumento il flusso degli immigrati europei nel Regno Unito e gli italiani ne costituiscono una fetta importante. Lo afferma l'Osservatorio sull'immigrazione dell'Università di Oxford. Nel 2015 ben 176.000 lavoratori italiani hanno preso la via di Londra e dintorni, un balzo notevole rispetto al 2011, quando l'asticella dei residenti si fermava a quota 126.000. Il saldo netto è più 50.000. Questo fa del nostro paese il quarto in termini di crescita del flusso migratorio verso la Gran Bretagna. Gli spagnoli sono passati da 63.000 a 175.000, anche se polacchi e rumeni sono la popolazione intraeuropea più numerosa. I giovani, meglio se lasciano l'Italia, lo pensa il 33% dei connazionali, secondo il rapporto sulla sicurezza e l'insicurezza sociale in Italia e in Europa presentato dall'Osservatorio Europeo sulla Sicurezza. In generale, il 75% degli intervistati ritiene che i ragazzi avranno un futuro peggiore dei loro genitori. Conferma un sondaggio Demoscop per il quotidiano La Repubblica. Alla domanda, per i giovani di oggi che vogliono fare carriera, l'unica speranza è andare all'estero? Sì, ha risposto il 73% degli intervistati. L'Italia occupa il 41esimo posto nel ranking Global Talent Competitiveness Index dell'INSEAD. Le tre nazioni migliori in termini di competitività dei talenti sono Svizzera, Singapore e Lussemburgo. Se da un lato il nostro paese vanta alti standard dal punto di vista della capacità di sviluppare e formare talenti e le loro competenze professionali, dall'altro appare indietro per quanto riguarda la capacità di attrarre nuovi talenti e professionisti. Quando si parla di attrattività, italiano, solo il 6% è straniero e con un'età media di 57 anni, circa l'85% è laureato, mentre il 18% è anche in possesso di un titolo di studio post laurea. Questo l'identikit del consigliere di amministrazione dei board delle nostre società quotate, secondo la Consob. Sempre sull'attrattività, Spagna, Italia e Grecia sono i paesi meno attrattivi per gli immigrati stranieri. Basso livello di integrazione, alto rischio di povertà e problematiche di integrazione, secondo la Fondazione Leone Moressa, che colloca Norvegia, Svezia e Gran Bretagna tra i paesi europei al top dell'attrattività. A colpire soprattutto è il basso livello di istruzione degli immigrati in Italia. Ha un titolo di studio elevato solo il 10%, mentre nei paesi più attrattivi la percentuale è compresa tra il 40 e il 50%. È stato presentato il nuovo bando Torno Subito 2016, programma della Regione Lazio che finanzia progetti proposti da studenti universitari o laureati per esperienze di formazione o lavoro all'estero, cui devono seguire esperienze all'interno della Regione. Il bando è finanziato con 18 milioni e nella nuova edizione si arricchisce di novità. Luca Baldazzi, 26 anni, ha avuto un'esperienza di lavoro all'estero presso la BBC, grazie a Torno Subito, seguita da un'esperienza in Rai. Sentiamo. È stata senz'altro essenziale perché mi ha permesso di poter lavorare e studiare per un periodo prolungato senza avere problemi economici per mantenermi presso la BBC di Londra. Grazie a questo ho potuto acquisire moltissime competenze sul funzionamento di quel servizio pubblico che mi hanno permesso in un secondo momento di scrivere un libro e di analizzare con una ottica diversa che non avrei potuto ottenere nel nostro paese il funzionamento e la direzione in cui si sta muovendo il servizio pubblico italiano. Quindi è stata un'esperienza estremamente formativa, molto appagante dal punto di vista umano. Tutte le info su tornosubito.laziodisu.it. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta negli Stati Uniti per andare a comprendere come il mondo dell'università e quello delle start-up possano interagire e produrre innovazione in modo semplice ed efficace oltreoceano e chiederci di conseguenza quanto questo modello possa essere emulato in Italia. Nome: Francesca. Cognome: Mirri. Età: 28 anni. Città di origine: Bologna. Studi: ingegneria chimica. Anno in cui ha lasciato l'Italia: 2010. Per andare dove? Houston, in Texas. Perché? Dottorato di ricerca. Quale lavoro svolge attualmente? Ricercatrice e imprenditrice. Dove? A Rice University. Tornerai? Per il momento no. The stars at night are big and bright. Deep in the heart of Texas, the prairie sky is wide and high. Deep in the heart of Texas. Qui in America ho l'impressione che ci siano molte opportunità per avviare startup. Ci sono numerosi programmi che puntano alla commercializzazione e allo sviluppo di nuove tecnologie e ci sono molti fondi governativi per aiutare il finanziamento, in particolare iniziale, di imprese innovative. Così scrivi a giovanitalenti@radio24.it Francesca. Posto che tra poco approfondiremo il tema quanto è semplice diventare startup per oltreoceano? Beh, diciamo che io non ho avuto molte difficoltà perché l'università mi ha aiutato moltissimo, anche il professor Pasquali mi ha agevolato e anche spinto in questa cosa, quindi per me non ci sono state molte. Tra poco approfondiamo, iniziamo con la tua storia che prende le mosse con una laurea triennale in ingegneria chimica all'Università di Bologna. Perché viene da chiedere su una facoltà così marcatamente tecnica e scientifica? Beh, mi piacevano sia fisica, matematica e chimica, vedevo l'ingegneria chimica come un connubio delle tre materie. Poi in casa mia sono tutti ingegneri dal 1800, io sono la quinta generazione. Quindi, continui la tradizione. Che voto dai da 1 a 10 al periodo universitario in Italia, visto a posteriori e con l'esperienza americana ormai consolidata alle spalle? Direi 8. L'Università di Bologna mi ha dato una buona preparazione teorica e mi ha aiutato ad affrontare il percorso successivo alla RISE. La cosa che manca è la parte più pratica, come ad esempio esperimenti in laboratorio, dove forse dovuto forse alle carenze di struttura adeguata all'università. La tua vita cambia, a differenza di molte storie che raccontiamo ogni settimana a Giovani Talenti, un po' per caso, più che per necessità. Nell'estate 2009 vai a trovare un amico a Houston, in vacanza. E cosa scopri? Beh, in America ho visto una realtà molto diversa. C'era la possibilità di fare una ricerca con mezzi avanzati su tecnologia all'avanguardia e la cosa mi ha, diciamo, sorpreso. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Non avevo mai pensato alla possibilità di trasferirmi in Texas per un dottorato. Avevo appena finito tutti gli esami della triennale, avevo in mente di tornare in Italia per discutere la tesi e iniziare la specialistica. Ma la vita ha in serbo una sorpresa. Cosa ti fa cambiare idea convincendoti al grande salto? Beh, ho conosciuto il professor Pasquali che mi ha parlato della possibilità di iniziare un dottorato di ricerca direttamente dopo la triennale. Ovviamente dopo aver superato i vari esami di ammissione richiesti per iniziare un dottorato alla RISE, poi ho anche parlato con studenti di dottorato e alla fine ho deciso di fare la domanda di ammissione. Professor Pasquale, conosceremo tra poco e ti chiedo subito, è stato semplice o complicato riuscire a ottenere il dottorato di ricerca alla RISE e in cosa l'hai iniziato esattamente? Beh, il dottorato era nel Dipartimento di Ingegneria Chimica alla RISE, ho lavorato nel settore delle nanotecnologie, in particolare nello studio di nanotubi al carbonio Inizialmente è stato abbastanza complicato per il fatto che ho dovuto migliorare la mia conoscenza dell'inglese ed era anche la prima volta che vivevo da sola all'estero, quindi molte delle complicazioni sono state anche più che altro dovute al fatto che mi dovevo adattare in un paese straniero. E nel gennaio di 6 anni fa inizi il dottorato. Ti chiedo quale ambiente di studio e lavoro hai trovato in Texas e soprattutto quali differenze con l'Italia? Diciamo che questo ambiente era molto dinamico, ho visto collaborazioni di ricerca interdipartimentali. Ad esempio la ricerca veniva fatta da gruppi di fisici, chimici e ingegneri che collaboravano tutti insieme sullo stesso progetto. Questo è un aspetto molto diverso da quello che ho visto in Italia, dove la ricerca rimane all'interno dello stesso dipartimento per lo più. Quindi c'è poco scambio. Lo scambio è fondamentale. Ci spieghi però nel modo più semplice possibile e in estrema sintesi cosa sono i nanotubi, i materiali di cui ti occupi, anche per fare chiarezza sul tuo ambito di studio? Beh, i nanotubi di carbonio sono, diciamo, dei tubi con diametro nanoscopico fatto di carbonio che possono condurre elettricità, hanno bassa densità, quindi sono molto leggeri e anche sono meccanicamente molto resistenti, quindi possono essere utilizzati in tante applicazioni, soprattutto nell'ambito aerospaziale, per esempio. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani immigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Francesca Mirri, 28enne ricercatrice e imprenditrice negli Stati Uniti. Per Francesca è sufficiente una vacanza oltreoceano per capire che il suo futuro di dottorato è all'estero. Negli States diventa non solo ricercatrice ma anche imprenditrice innovativa grazie alla spinta motivazionale, ma non solo, fornitale dal contesto universitario. Un modello da copiare in dosi massicce anche in Italia, quello della Commissione Università Startup. Riprendiamo l'ascolto. Giovani Talenti. Dopo qualche anno ho cominciato a interessarmi alla commercializzazione di nuove tecnologie, ricordi, e qui inizia la tua seconda vita da ricercatrice a imprenditrice. Come nasce allora la tua startup DexMath e qual è l'idea alla base? Dunque, l'idea alla base è di commercializzare fibre e films di nanotubi di carbonio per diverse applicazioni, come ho detto, dal campo della aeronautica a quello dei dispositivi elettronici da indossare. Diciamo, DexMath nasce nel febbraio 2015 quando con il professor Pasquali e altri colleghi abbiamo deciso di commercializzare alcuni prodotti che avevamo sviluppato durante il dottorato di ricerca. Io e il mio collega abbiamo fatto dei corsi di economia e partecipato a diverse competizioni per startup dei fondi e sviluppare anche la nostra strategia aziendale. Con queste competizioni abbiamo anche avuto dei fondi per mandare uno dei nostri prodotti nella base spaziale internazionale per studiarne le proprietà nello spazio. Però, interessante. Francesca, quale ecosistema imprenditoriale hai trovato negli Stati Uniti? Un sistema che incoraggia e come in concreto la nascita di aziende innovative? Beh, l'ecosistema imprenditoriale qui è molto incoraggiante. Ci sono molti cosiddetti, non so, penso in italiano si dica incubatori, che aiutano a portare idee da semplici progetti di laboratorio a prodotti sul mercato. Poi soprattutto nelle università ho visto molti programmi che incoraggiano gli studenti all'imprenditoria, procurando contatti, risorse utili e corsi proprio di imprenditoria per lo sviluppo del prodotto. Oggi DexMath cos'è? Verso dove puntate? Beh, oggi DexMath è una startup che, avendo ricevuto diversi finanziamenti, sta realizzando una linea di produzione di fibre e film di nanotubi per prodotti già brevettati e sta anche cercando di svilupparne altri ad alto contenuto innovativo. Tu comunque, anche per questioni di visto, continui a fare ricerca, non hai del tutto abbandonato l'ambiente universitario, questo lo dobbiamo precisare, e ti chiedo, te l'aspettavi la nomina di Forbes nella classifica dei 30 under 30 talenti mondiali nel settore manufacturing and industry? No, è stata una bella sorpresa, soprattutto perché poi ho ricevuto la notizia il giorno del mio matrimonio, quindi è stato molto bello. Come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? Beh, purtroppo l'Italia è un paese che, nonostante risorse e potenzialità, non è in grado di gestirsi. Per quanto mi riguarda, non penso avrei avuto le stesse opportunità in Italia che invece ho avuto qui. Secondo me, per risolvere parte dei problemi bisognerebbe vedere come questi problemi sono risolti negli altri paesi ed è inutile cercare soluzioni, diciamo, inconcludenti e con troppi compromessi. Ci raggiunge ora in linea Matteo Pasquali, professore di ingegneria chimica e biomolecolare e direttore del Dipartimento di Chimica alla Rice University di Houston in Texas. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Professore, cosa ci insegna la storia di Francesca Mirri in termini di opportunità, lei che in qualche modo ne è stato l'artefice? Ma quello che ci insegna è che le qualità più importanti per cose come quelle che ha fatto Francesca sono il coraggio e la determinazione. Le capacità intellettuali ovviamente sono un must, una cosa di cui non si può fare a meno, ma per fare quello che sta facendo Francesca ci vuole veramente un coraggio, una grinta, una determinazione che non sono comuni. Lei stesso arriva da Bologna e anche per lei c'è stato anni fa il salto negli Stati Uniti. Perché fece questa scelta? Ma io la guardai un po' come magari un ragazzo di 18 anni guarda dove giocare a calcio o a pallacanestro. Cioè, io volevo fare ricerca e ero abbastanza bravo, e avevo 23 anni, mi ero appena laureato a Bologna, avevo già visto che ero abbastanza bravo e ho chiesto dov'è che posso fare ricerca a livello più alto. Questo era il 93 e mi dissero che ingegneria chimica era all'Università del Minnesota, e allora io dissi voglio andare là e feci domanda, mi presero e partì pensando di stare 3-4 anni e poi tornare in Italia, e non sono più tornato. Come purtroppo spesso succede. Lei ha vinto anche numerosi riconoscimenti negli anni. Attualmente di cosa si occupa al di là dell'insegnamento alla Rice University? Facciamo prevalentemente ricerca sulle nanotecnologie del carbonio, come ha già spiegato Francesca, capire questi nuovi materiali di nanotubi del carbonio e come fare materiali soffici, materiali che conducano elettricità ma possono anche essere usati come materiali tessili, ad esempio. Lei è l'incarnazione di un modello molto frequente negli Stati Uniti, ma ancora forse poco sviluppato in Italia, quello del docente universitario che entra lui stesso nella startup sviluppata da studenti o ricercatori della sua università. Quali sono i vantaggi di questo modello? Ma i vantaggi sono tanti, diciamo che i vantaggi più grandi sono quelli che un ricercatore affermato che è già stato professore per 10-15 anni di solito ha un grosso network di conoscenze ben al di là dell'università, e questo network è molto importante per far cominciare una startup e ad accedere a personale, a fondi, a finanziamenti e a consulenti che possano aiutare, e quindi queste qui sono le cose più importanti. Inoltre c'è anche un po' una guida scientifica, anche lì essendo stati in una certa area scientifica per più di un decennio uno può vedere meglio dove si può andare e quali sono i potenziali rischi. Lei vede questo modello esportabile in Italia? Sì, questo dunque il modello del professore che partecipa alla startup è sicuramente esportabile in Italia. I professori anzi hanno forse anche più libertà che negli Stati Uniti, diciamo che forse hanno meno risorse e più libertà, e quindi mi sembra che per l'organizzazione italiana non ci siano problemi per un professore a cominciare una startup con gli studenti. Per chiudere il tema fuga del cervello dei talenti dall'Italia, sono tanti quelli che vengono in Texas, e quale ruolo giocano le maggiori opportunità che trovano oltreoceano? Ma è un ruolo fondamentale. Io non credo che molti dei ricercatori che si spostano negli Stati Uniti o in Texas vengano perché la vita in Texas sia in qualche modo più piacevole, anche se in realtà la vita è molto buona in Texas, ma spesso vengono senza neanche essere mai stati o magari aver visitato solo una volta, e vengono per frustrazione per la mancanza di opportunità in Italia e perché vedono le opportunità che veramente sono presenti negli Stati Uniti. Grazie al professor Matteo Pasquali, buon lavoro. E domanda di rito per Francesca Mirri: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Beh, mia sorella, laureata con 110 lode in ingegneria e di architettura, che non riusciva a trovare lavoro nel suo settore, ho suggerito immediatamente di venire qui in Texas da me. Per quanto mi riguarda, tornando indietro, rifarei le stesse scelte, soprattutto anche vedendo le difficoltà lavorative che hanno ancora molti dei miei amici rimasti in Italia. E siamo arrivati al momento che molti di voi attendevano, quello in cui proclamiamo i quattro vincitori dell'iniziativa Giovani Talenti in Europa 2016, che ci ha accompagnato da marzo fino all'inizio di questo mese. Viaggeranno dunque a Strasburgo per una visita al Parlamento Europeo tra il 4 e il 6 ottobre Alberto, 22 anni, di Vicenza, con la proposta partecipazione del giovane a stage presso filiali europee di aziende italiane incentivate a formarlo e a introdurlo al contesto internazionale. Beatrice, 22 anni, di Roma, con la proposta gli studenti del secondo, terzo, quarto anno di liceo possono trascorrere una parte dell'anno scolastico da 1 a 3 mesi in un paese straniero e vivere in una famiglia ospitante. Lorenzo, 23 anni, di Siena, con la proposta, con una direttiva generale, rendere la garanzia giovani vincolante per tutti gli stati membri e creare partnership tra enti per l'impiego e le aziende. Infine Anna, 32 anni, di Ascoli Piceno, con la proposta promozione di partnership tra due aziende di paesi europei. Il giovane svolgerà il periodo di apprendistato in entrambe le realtà. I dettagli sui vincitori e le loro proposte li potete trovare sul sito www.radio24.it. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi ci occupiamo di un nuovo magazine online e cartaceo nella sua versione bimestrale. Si chiama IT Factor e racconta l'Italia, compresa la sempre più numerosa comunità di connazionali oltremanica, agli inglesi. Caroline Latini è redattrice di IT Factor, vive e lavora a Londra. IT Factor nasce circa 2 anni fa dall'idea di Daniela De Rosa e Marina Roncarolo, per dare alla comunità italiana a Londra, che è in continuo aumento, si contano oggi 500.000 circa italiani a Londra, dare agli inglesi in realtà un'idea di cosa è l'Italia e gli italiani, l'italianità, andando oltre gli stereotipi e soprattutto utilizzando una lingua che non è l'italiano ma l'inglese, proprio per arrivare a un audience che è internazionale, inglese di base. Voi raccontate eccellenze italiane, però sappiamo bene che Londra è anche una città, la Gran Bretagna è un paese di importazione ormai di italiani. Allora, come raccontate, se raccontate anche la nuova emigrazione italiana? Sì, assolutamente, raccontiamo sia quella che ormai è qui da più di 10, 30, 50 anni, sia i giovani italiani che si trasferiscono qui alla ricerca di un lavoro, di un futuro nuovo. E quello che vogliamo raccontare è appunto tutto il percorso che i ragazzi fanno, un po' la loro esperienza proprio da un punto di vista umano, di trasferirsi qui, di trovare una società completamente diversa. E soprattutto raccontiamo questi ragazzi che sono tutti molto molto preparati, tutti ragazzi che sono brillanti. Che reazione vedete dal vostro pubblico inglese? Cioè, come guardano questa emigrazione? Gli inglesi sono molto interessati, sicuramente c'è ancora un forte attaccamento a quelli che sono gli stereotipi dell'italianità, quindi il cibo, la moda, il design. Tra l'altro è interessante notare come all'interno della redazione di IT Factor ci siano anche giovani giornaliste come te che sono andate a Londra a cercare un'opportunità. Perché avete lasciato l'Italia? La sostanza è questa: Londra è una città che offre tantissimi stimoli e soprattutto a Londra c'è il senso, il sentimento della speranza, che purtroppo in Italia, bisogna dire, la mia generazione, quella dai 20 ai 30, 35, non ha più. Manca proprio il senso di crescita, e questo invece a Londra non c'è, perché c'è un'opportunità per tutti, indipendentemente dalla tua nazione, indipendentemente dalla tua lingua. Per maggiori informazioni potete cliccare su theitfactormag.com. Un motivo per restare o tornare. Ci sono 6 atenei italiani tra le prime 100 giovani università del mondo fondate negli ultimi 50 anni, secondo la classifica redatta dalla settimanale Times Higher Education. La Scuola Superiore di Sant'Anna di Pisa conquista la top 10 e si piazza al 10° posto. Seguono tra le italiane le università di Milano Bicocca, Verona, Roma 3, Roma 2 Tor Vergata e Brescia. E per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Giovani Talenti o nella pagina Giovani Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è Emigrazione Giovane. Dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Interactive ogni ultimo sabato del mese, leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di maggio. Dati aerei alla mano, oltre la metà degli immigrati italiani nel 2015 aveva tra i 20 e i 40 anni. È la prima volta che succede nella fase più recente di espatrio. È un'immigrazione sempre più concentrata nella fascia giovane e produttiva della popolazione, secondo voi? E se sì, questo nasconde più rischi o opportunità per il sistema paese? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati e magari ascoltate Giovani Talenti via web dall'estero, candidatevi, aspettiamo voi, giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.